10, chi c'è sul canale 10? Che è? Basso. Ehi, già, ciao, ben ascoltato, buonasera. Come mai sei così basso? Ti ascolto basso, prima ti sentivo bene. Ehi, già, è molta difficoltà ciò ad ascoltarti. Segnale 6-5, la radio è bassa, bassa, bassa. Capito? No, mi ha fatto piacere, sei entrato a salutarmi, dai. Io anch'io attività amatoriale non la sto più facendo. Sono sempre qua sul canale 10, facciamo due chiacchiere ogni tanto con le poche persone che sono rimaste. E basta, Gianni, capito? Per il resto è noia. E adesso un'altra cosa, nulla già, siamo in chiusura di lavoro, anch'io poi appartengo alla categoria dell'INPS, fa un po', capito? E nulla, ti ripeto, no, le sere vanno bene, Santiago Lopez 6 quasi, la radio 5, prima di basso basso. E niente, e nulla, radio 0, ti ripeto, due chiacchiere qua, 27, tutto il resto è sempre spento, le antenne sono lì, ogni tanto le faccio girare per non guardarsi, però a breve le toglierò, perché per lasciarle lì e non usarle le tolgo già, capito? Quindi le riconservo dove erano prima, dentro le cassette, e le lascio sui mansarda. Tanto in verità non le faccio più, non mi interessa, basta così già, capito? E già che si rovinano, l'inverno può essere un inverno molto duro, si rompe qualcosa, invece così le tolgono, si rompono, cosa ne fai già? Non ne fai assolutamente niente. Le cose quando non si usano bisogna conservarle, capito? No, già, e come si vede, quelle sono le antenne. Sono della pick-up a doppio, sono 2000 euro solo di antenne sul tetto senza rotore e tutto il resto, tutto il lavoro che è stato fatto già è un peccato, capito? È un vero peccato. Però non le uso, le faccio ogni tanto, le faccio girare così, giusto per, ma no, attività nulla. Considera che avevo comprato anche la radio nuova, cioè l'ultimo che ha fatto la IAESO, il piccolo, diciamo. Ho comprato prima il 1002, poi me lo sono venduto perché non mi piaceva, ho preso il 2000. È sempre spento, sempre, perché ho quello della Icom, il 756 Pro 2, quindi uso sempre quello. Quando non c'è più niente, già, te ne passa dalla gana, come si dice, non è utile che stai a comprare, è meglio lasciar perdere. No, io le V e le U ce le ho, c'ho anche la parte digitale, Gianni, io c'ho tutto ma non uso niente, capito? Lo so, li seguo, anche ieri hanno fatto prova, l'altro giorno hanno messo il tono a 74.4, io ci sono sempre in ascolto, ma non entro già, capito? Non entro, non mi interessa più, non mi interessa. Poi per quanto riguarda i contest, io anche domenica c'ero in 40 metri. Domenica c'era Filippo che stava trasmettendo in 40 metri e praticamente gli ho dato il mio contributo, capito? Quando ci sono le sezioni, le nostre sezioni, sia quella di Porto Torres che quella di Sassari, eccetera, io trasmetto, non è che non trasmetto. Il mio nominativo c'è sempre, però capita raramente, capito? Quello lo posso anche fare. Saluti, arrivederci e buon viaggio, ma questo io in HF non ne ho più fatto già da più di un anno, Gianni, capito? In VHF e in UHF sono un anno e mezzo che non c'entro, però ti ripeto, c'ho tutto, sia le V, le U, base, perché c'ho quelli della Icom base, i gemellini, 275 e 475, poi c'ho addirittura sia il 780 che il 790, sempre base, non ne ho veicolari io. E poi c'ho il portatile VU, sistema digitale, ma non ne uso, ascolto ma non ne uso già, capito? Ho tutto ma non ho niente. Thank you. perché ti dimentichi. Tu considera che io sono andato nel 93, ho preso l'Europio Zero, nel 95 ho preso l'altra, siamo rimasti con la buon'anima di Tore Alaverde 2 mesi studiando per poter andare a dare gli esami, perché prima gli esami non erano unificati le patenti, capite? E quindi ho dato prima una e poi l'altra. Se adesso tu mi dici di fare CV doppio, c'ho tutto, c'ho il tratto, c'ho tutto, fatto la campo bellissimo. Se mi dici di fare, anche io so fare quelle poche cose, boh, se poi ti metti a trasmettere non capisco un accidente, perché ci vuole continuo, capito? Devi essere continuo, praticarlo tutti i giorni. Allora, è come la musica, no? Alla fine poi la canzone ti entra in testa e la canti da solo, così ci vuole doppio. No, già io c'ho tutto, perché se mi sale per dire che voglio trasmettere, trasmetto. Se però non ce l'ho e mi manca, poi allora mi viene nervoso. E così ho deciso di tenere tutto, anche perché sai benissimo, io ho la mia stanza, posto ne ho abbastanza, quindi le radio sono tutte attaccate, le accendo contemporaneamente tutte assieme. Capito? Perciò non ho mosso mai niente da qua, assolutamente. Per quanto riguarda la 27, lo sai, io ho la linea del 440 completa e la linea del 430 completa. Un po' uso una, un po' uso l'altra, non ci sono problemi. No, sul canale 10 noi ci siamo, sono io, c'è Marco, Condor, c'è Gianni, sempre più Room, Massimiliano, c'è Natalino che è rientrato, ogni tanto si affaccia a Pomponio, a volte sta qui nel 10, a volte va nel canale 20, che c'è un canale che si hanno fatto tra di loro, tutti vicini di casa, ma sono 2 o 3 mi sembra, che stanno lì sul 20 a chiacchierare tra di loro. E poi c'è Valerio D'Alghero che entra qua, Giuseppe D'Alghero, no, noi ci siamo tutte le sere. Adesso mi verso 6:30, alle 7, sino alle 8, 8:30, noi ci siamo sempre. Io sono tutte le sere presente qua sul 10 già. Infatti l'altro giorno è entrato anche Uranio e ti ho mandato i saluti, non so se te li ha dati. Capito? Perché ho chiesto, non avevo più sentito, e mi ha detto sì, siamo sentiti da poco, ho detto se lo senti dalle saluti. Perché non ti ho più sentito qua, capito? E il discorso non fa una piega, Gianni, se i sacrifici sono stati fatti, lo sai. Io da ragazzino sono appassionato di radio e tutte quelle che ho le ho comprate piano piano, con sacrifici, quindi darle perché non fai più attività. Magari come dici tu, mi chiama Gianni, c'è qua, passa in UHF o passa in VHF, vai qua, non c'ho più le radio, mi ho venduto tutto. No. Io sono sempre presente, capito già, io sono al corrente di tutto, seguo tutto in silenzio, in ascolto, però non vado più a disturbare nessuno, non vado più a rompere scatole a nessuno. Sto al mio posto, Gianni, già da un po' di anni, facciano quello che vogliono e decidano quello che vogliono. Io sono qua e sto al mio posto già, capito? Non ho più voglia di prendere colpi da nessuno e di essere trattato a calci in culo, capito? Basta così. Ho dato tutto quello che dovevo dare, adesso me ne sto tranquillo, sereno, poi fatti miei senza rompere l'anima a nessuno già. Sì, da tanto. Io c'ho anche l'amplificatore HF della Iaesio, che appunto è accoppiato alla radio Iaesio, da 1,5 kW PEP, quindi non è che ho paura di nessuno, le direttive ci sono sul tetto, sono buone direttive, di buona stazza, di buon rendimento, soprattutto da quassù. Guarda, l'amplificatore se l'ho usato da quando ce l'ho, FL2100 l'avrò usato 3-4 volte e ce l'ho 2 anni, capito? Ce l'ho 2 anni, quindi è sempre spento, ogni tanto lo accendo per fare scaldare le valvole e basta, e poi lo spengo già, capito? Quindi non è il problema di non avere, io ti ripeto tutto, però non lo uso perché non mi interessa più, non c'ho più quella passione. Con il 27, anche la settimana scorsa stavo usando il baracchino, quindi figurati. Giusto perché siamo pochissime persone, ci conosciamo, ogni tanto, è già la seconda volta che andiamo in 7-8 a mangiare la pizza tutti assieme, facci due chiacchiere, due risate, però la cosa è diventata molto ristretta, non c'è più tutta la gente di prima, capito? Dall'altra parte c'è la solita Greffetta che giustamente si unisce nelle sue cose e niente, si sta bene, dai. Non ci sono più problemi, litigi, lamentele, basta che uno stia al suo posto, Gianni. I problemi sono finiti. Beh, io ho iniziato qua sul canale 10, prima eravamo tantissimi, ti ripeto, poi adesso quelle 3-4 persone, non lo so, insomma, persone grandi, persone anziane che hanno voglia di parlare tra di loro, sono spostati al 20 e noi ci abbiamo fatto la nostra Greffetta qua sul canale 10, che ti posso dire è abbastanza trafficata, o perché ci sono io, entra anche Giulio con noi, capito? O perché ci sono io, perché va bene così, non mi posso lamentare. Tutto a posto già, tutto in ordine, funziona tutto, basta che nessuno rompa l'anima, le scatole, funziona sempre tutto. Vicino a te, ma Sandro abita a Balai, guarda, ci siamo sentiti anche stamattina con Sandro, ci sentiamo molto spesso durante la settimana. La domenica quando io sono libero ci prendiamo anche il caffè assieme. No, sotto l'antenna per motivi di estetica lì, però la radio ce li ha tutte, non ha nessun problema. Non ha più tempo perché c'è un lavoro molto impegnativo, sempre in giro, a destra e a sinistra, quindi non ha più tempo di trasmettere. Magari d'inverno, sai, una piccola antennina la mette, però quella grande l'ha tolta perché esteticamente dava fastidio, fischiava il vento, quindi per non avere problemi con i vicini di casa l'ha tolta. Però ti posso garantire che è in piena forma, sta benissimo, guarda. Ehi, Gianni, va bene. No, beh, c'aveva una Gran Play, infatti penso che la rimetta quest'inverno, la piccolina, la Mantova. Io non è posto a mettere Mantova, capito? Non è posto a mettere Mantova, Mantova va bene qua, nel mio palazzo, perché è alto, non disturba, non si sentono ronzii, fischi, eccetera. Ma quando c'è vento così, in un condominio basso a schiera come lui, disturba, capito? Non è che disturbava la televisione, disturbava proprio l'antenna, il fruscio, il movimento, queste stronzate, sai, il condominio com'è. Però vediamo un po'. Va bene Gianni, dai, mi allontano un attimo, devo farmi la barba, devo andare a mangiare il cucciuccio, il mio cagnone Filippo, che si è già alzato, è già pronto. Mi ha fatto piacere già, ogni tanto mandami qualche messaggio su WhatsApp, due fesserie, due cose, capito? Ci aggiorniamo, fa piacere se entri qua, quando sei libero accendi il baracchino, due chiacchiere, intanto ti ripeto, siamo quattro gatti, non è che c'è molto da dire, capito già. E soprattutto salutami a babbo, a quel pensionato, dille che anch'io fra un po' sto arrivando, Ciao Gianni Lami, dai, ci aggiorniamo, non mi disturbi mai, quando vuoi mi puoi chiamare, mandare messaggi, non c'è problema, capito? Un abbraccio anche a te, salutami a babbo e ci sentiamo, mi ha fatto piacere ascoltarti Gianni, ciao, a presto. Claudio, sto mangiando, mi ti ho sentito però. No, perché mi stavo mangiando una cosetta, che avevo fame. Va bene, l'importante è che ci sei. Ehi, c'è Babbo, sei tu. Ma sono il tuo canale? Ehi, lì so, ogni tanto entro. A volte giro, già ce n'è anche da altre parti. Ciao Gianni, perché sei così cupo già? Ma sempre quella radio là, Mamma mia, quanto esci male io. Non mi piace, sei cupo, sei tutto. Non mi piace la modulazione Gianni, te l'avevo detto che quella là è molto meglio. Ne ho uno Gianni, ne ho uno, e tra l'altro è Icom, gli ho cambiato le connessioni, gliel'ho fatto Icom, capito? Perché mi serve sull'Icom. Sullo Yaesu ce l'ho già, Uno solo ne ho già, perché? Non hai capito? Ma non hai capito, tu continui a non capirmi Gianni. Allora l'MD1B8, l'MD1C8, l'MC50 sono tutti microfoni da tavolo senza preamplificazione, non sono amplificati come l'MC60, non ne hanno circuito di preamplificazione, sono microfoni da tavolo senza preamplificazione. No, prova a farti il cavetto Yaesu Kenwood e usa l'MC60 su quella radio, poi me ne dai una risposta. O l'MC80, l'85, vedi, quelli già si trovano, quelli già te lo posso procurare, un 80, un 85, capito? Glielo metti sopra, cosa auction, cosa ne va dell'auction? Prova a mettergli uno di quelli a vedere, poi mi dai la risposta. Quella radio che stai usando tu, stai molto attento quando fai le connessioni perché la bruci, il puntale, il centrale di quella radio, ok? È uguale a quello del Kenwood, non cambia niente, c'è da invertire un filo perché c'è l'inversione del PTT e basta. L'alimentazione a 8 volt la prende dal centrale, ricordatelo sempre. Quindi se tu li attacchi l'MC60 senza toccare il centrale, ok? Perché sono 7 in giro, 8 centrale, ok? Quindi il centrale lo lasci, devi invertire, ti guardi lo schema, devi invertire perché c'è da invertire il PTT che sono al contrario, sia quello della Yaesu che quello della ICOM, perché me lo sono fatto io, eh? E poi mi dai la risposta, il microfono è alimentato dalla radio, non ha bisogno di batterie, no, quelle radio sono uscite con l'MD1B8 e l'MD1C8. Se tu immaginati che anche l'MD100, quello nero che tu ben conosci, anche quello non è amplificato, è un microfono normale da tavolo, capito? Per le radio Yaesu, per la Yaesu non si è preoccupata di fare come la Kenwood dell'MC60, che lo puoi attaccare da tutte le parti, disinserisci e inserisci la preamplificazione secondo la radio che usi. La Yaesu ha fatto tutti i microfoni senza essere preamplificati, mentre a differenza della ICOM, la ICOM ha fatto l'SM20 che è preamplificato, capito? Come l'MC60, c'è la rotellina dietro, con le regoli e c'è il circuito di preamplificazione. Guarda che il connettore, se tu guardi il connettore Yaesu, è uguale al connettore ICOM, non cambia niente. Se tu metti il microfono della Kenwood in quel radio Yaesu, entra tranquillamente, ma non esce perché c'è da invertire i fili. Diglielo tu Claudio. Lascialo mangiare a Marco, già entra quando ha finito di pappare Marco. Capito Capri? Quindi, no, io le ho avute tutte e tre, ho avuto il 757 normale, il primo che è uscito, poi è uscito il 757 GX e poi è uscito il 757 GX2, li ho avuti tutte e tre, però in AM non mi piace, la modulazione del K è un'altra gubba, infatti io l'ultimo poi che avevo preso GX2 l'avevo versato e ho comprato il primo 430 da Mario Notari e sono andato avanti fino adesso sempre con le radio Kenwood. A me Yaesu non mi piace in AM, 440 con l'MC60, io stavo usando il 430 sempre con l'MC60, però se io cambio non cambia niente, la modulazione è sempre quella, capito? E bisogna vedere com'era, io il mio non lo do manco se me lo pagano a prezzo loro, capito? Quindi 430 è un'altra bubba del 440, un'altra macchina molto più corretta, corretta veramente, che ha meno problemi di tutto, più meccanica. Va bene, va bene. E niente, ma io mi sembra che avevo dato a te, avevamo fatto cambio, non ce l'hai più quel Prox, cos'era, Oxin, quello lì non ce l'hai più. Ci puoi mettere il tane più 3, ci puoi fare il connettore all'MB più 4. Però senza processore, usi praticamente la radio senza processore, usando la preamplificazione del microfono, che regola la preamplificazione del microfono, va benissimo. Le ho fatte già io queste prove, Gianni, tranquillo che vanno bene. Il più 4, il più 5, al Kenwood va bene, il Tamer più 3, basta che abbia, che stacchi il processore, e lo usi senza processore. Vedrai che va benissimo, perlomeno per la mia voce va benissimo, non ci sono problemi Gianni, capito? Beh, anch'io, io radio Kenwood e microfoni Kenwood, IAESO, ICOM, non è che posso stare, poi ti ripeto, di MB più 4 e più 5 ce li ho, sono attaccati ai baracchini perché devono andare con i baracchini, punto e basta. Va bene anche quello, va bene anche quello, l'importante è che fa le regolazioni giuste. Ti prepari il connettore, stai attento, però quando fai la connessione hai agli 8 volte o a 6 volte, adesso non so se lo IAESO a 6, il KVD a 8 o viceversa, comunque stai attento che il centrale è quasi sempre l'alimentazione del microfono. Se sbagli paghi, te lo sto dicendo, rovini la radio, rovini la radio perché mandi in corto il sistema di alimentazione. Stai molto molto attento quando fai queste connessioni, capito? Perché sennò è un casino, ci vuole molta attenzione. Ti sto dicendo di stare attento, lì c'è un positivo e un negativo per l'alimentazione microfonica. Guarda che l'ho fatto un sacco di volte tempo fa io i cambi di microfono sullo IAESO, soprattutto sul 757. Quindi stai attento, leggi bene e stai attento. E lì c'è l'alimentazione perché la polarità è uguale a quella del Kenwood, capito? Cambia solo PTT, cioè ricezione, mic gain, capito? E basta. Lì il centrale, se non è il centrale, che è magari qui sul Kenwood al centrale, magari sarà il 5, il 4, il 3, controlla bene i numeri e leggi, ci deve essere un positivo e un negativo, quella è l'alimentazione al, che prendi dalla radio per il microfono a tavolo. Non te lo sa chi più è. Tutto duro è. Già, per forza ci deve essere, per forza. Per forza ci deve essere, tutti i connettori a 8 hanno l'alimentazione, già, capito? Perché sono 6 più 2 del down e up, 2 sono del down e up, quindi quelli puoi escludere se non ti vuoi collegare il down e up. Però 6 puntali, 1 c'è per forza l'alimentazione. L'ho fatto io Gianni, ci ho attaccato il microfono a tavolo. Il FAT è quella connessione lì, è per appunto, come vedi, siccome se tu c'hai l'MD1 come c'ho io, l'MC60 ne ha 2, down e up, destra e sinistra, ok. L'MD1B8 ne ha 3, down, ok, da una parte a sinistra, up, a destra centrale c'è il FAT, capito? E quindi va collegato anche quello. E down e up. Vabbè, comunque. Quel microfono lì, stai attento quando lo colleghi, perché sennò è un casino. Allora, IAESO, se tu lo vuoi, già pronto, col connettore pronto, ok? Col connettore pronto, da mettere la batteria, l'MB più 4, quello ce l'ho io, nuovo, mai usato. L'avevo fatto fare da Carlo col connettore già pronto, IAESO, perché lo usavo con le FT 920-27, ma bellissima modulazione. Io ti sto parlando di connettore, io ce l'ho già pronto, capito? Già pronto per lo IAESO. Ed è l'MB più 4 col connettore IAESO. Carlo infatti il centrale non l'ha collegato perché io ho la batteria nel microfono, uso la batteria esterna proprio per non fare casino, capito miei? Comunque, qualsiasi microfono ci puoi mettere lì, devi stare attento quando fai le connessioni, microfono per amplificarti, per quella radio non ce n'è, o ti fai il cavetto e usi il 60, ok, oppure microfono preamplificato, per quella radio non ce n'è. Ecco perché io l'altro giorno ti ho detto non mi piace come radio, perché non si può attaccare il microfono preamplificato, devi fare un sacco di casino e non mi piace, cioè non c'ha il microfono suo, capito? Io ce l'ho, vedi che mi è rimasto l'MD1B8, però non è preamplificato, là devi mettere un altro microfono di baracchino, a me i microfoni di baracchino non mi piacciono qua in sala radio, perché io ho tutti i microfoni, ICOM, Kenwood, IAESO, capito? E basta, l'unico microfono che c'è, MV più 5, è quello del Galaxy. E boh, Marco, finito, hai mangiato. Ci sono al dolce. E sono la frutta. Va bene, va bene. Vediamo un po' se c'è qualcuno che vuole entrare sul canale 10. Natalino, ci sei? Natalino non c'è, Marco sta mangiando. Gianni, oggi è il compleanno, perché è il compleanno di mia moglie, quindi anche il suo, anche Gianni è 20 novembre, 20 ottobre. Adesso le mando un augurio su WhatsApp. Capito, è Gianni, è che non mi piace c'è la radio. Perché devi abbinare il microfono che non è suo. 23 di che cosa? Di ottobre? No, oggi è 20. Adesso è il compleanno di mia moglie, oggi, anche lei è 20 ottobre. Capito? Ah. E 59, sì, quanto a me. Caspita, io sono 20 novembre, sei nato un mese prima. Io sono invece novembre. Non ne fai 58, ne fai 59, già rincoglionendo ti stai. Allora Zinzeni, ne fai 59. Ah, 59, sì, 59, sì, sì, 58 ne fai, giusto, giusto, giusto. E lo so. E poi è calata la temperatura, tra oggi e domani calerà la temperatura, capito? Domani c'è scritto così su internet. Domenica ha dato pioggia, ma che forza, bro. Che faccia un po' di acqua che ci serve. Maledizione, dottor Zicco. Do... Hai finito, Marco? Cosa stavo dicendo? Vabbè, intanto lì c'è il processore, c'ha quella radio, mi sembra, no? Attaccaglielo l'MD1, Gianni, l'MD1 B8. Usi il processore, Michi è un pochino più alto, poi magari facciamo qualche regolazione, vediamo. Sicuramente esce meglio del microfono da palmo, eh? E vabbè, l'MD1 è molto bello, è simile all'MC60, però è molto bello. Io ho le connessioni ICOM e mi serve, collegato a una radio ICOM, esce molto molto bene, perché è normale, capito? Poi usando le bande laterali ce l'ho sul 756, quello normale, però è 756, sul Pro2 c'è l'SM20, su quello lì esce molto bene, esce bene, aveva un problemino, l'ho sistemato, capito? Mi aveva regalato Gianfranco, e quindi siccome un regalo non lo vendo, me lo tengo, anche perché va bene, insomma, già funziona, beh. Ecco, anche l'MC50 ci può mettere, nonostante non è preamplificato, l'MC50 c'ha una buona capsula, ok, riesce meglio, così non tieni il microfono in mano, riesce meglio del microfono normale, processore inserito, facciamo qualche regolazione, cambiati la connessione, fatti la connessione IAESU e ti attacchi l'MC50, non ce l'hai il microfono, va bene, e a me lo dici. Non lo so, sì, infatti io uso molto queste radio proprio perché le devo usare, sennò per me sarebbero rimaste spente, ho dei bellissimi baracchini in base e quindi posso usare anche quelli, però questi bisogna usare, devo dire. Marco, dove sei? Dove sei, Marco? Guarda che ti sento, ti seguo, ti vedo, Sono qua, me. Mi stavo lavando le mani e asciugando. Non mi sono nemmeno fatto la barba, ho la barba lunga, sembro tossicomane. Bene, vediamo poi se entra qualcun altro, tipo Natalino, che sia ancora dormito, come dici, qualcuna. Non è dormito, no? Già è sveglio. No, io me l'ho fatta poco fa. Poco fa, quindi domani mattina mi alzo tranquillo, con calma, se no... Capito, devo uscire presto la mattina alle 8 e ho un appuntamento alle 8:30 e devo vedere un po'. Non lo so, Gianni, non lo so, vedi te, fai te, 50 ci puoi mettere, è normale, se no ti ripeto, un 80 o un 85 che vanno bene, devi solo invertire la polarità e basta, quello te lo posso procurare, c'è uno che li sta vendendo. Sì, già lo conosco, ti ho detto il 50 io che l'ho avuto, il microfono originale del 780, l'avevo regalato a un radioamatore che le serviva e si è messo il circuito preamplificato all'interno, vanno bene quei microfoni, però ti sto dicendo, anche l'80 e l'85, il connettore è uguale, ti ho detto, è uguale, preciso identico, già entra, devi solo invertire le due polarità, capito? Ricezione con la trasmissione, trasmissione con la ricezione, e basta, il connettore è uguale perché ce l'ho io il microfono della Yaesu, entra nel connettore Kenwood e quindi, però non mi dà il PTT perché c'è da invertire le polarità, tutto lì, e basta. Avanti Marco. Figa, voi state parlando arabo naturalmente per me, ne dico la roba non c'ho nulla, lo usavo e basta, e buon viaggio mi al K. Vabbè adesso vabbè non so cosa dire perché non ci abbiamo un discorso bello, io di queste cose dei microfoni Kenwood, Icom, Yaesu non ne so. Sì, niente, già diciamo una radio Yaesu simile al 140, mi stava chiedendo a me se avevo un microfono Yaesu, io ho il microfono Yaesu, ma non lo ho, ho il Yaesu MD1 D8 che però non è preamplificato, i microfoni della Yaesu non sono preamplificati, c'è niente da fare, non c'è niente da fare, costano una barca di soldi, però per la 27 non va bene, allora io per usare il 920, gli effetti 920, avevo fatto, ho comprato l'MB+4 che costava poco e gli ho fatto fare la carola con il connettore Yaesu e ce l'ho ancora così col connettore Yaesu, capito? Usciva molto molto bene, forte, chiaro, bello, perché usavo sia il processore, anzi, attento, il processore non ne ha lo Yaesu in AM, non ne ha processore in AM lo Yaesu, da anni, tu parla, parlando, inseriscilo o disinseriscilo, prova a vedere, da anni, non agisce in AM, tutti gli Yaesu in AM non hanno processore, solo in banda laterale, quindi quella radio, io ti ho dato il consiglio provato, domo culi di la conca. Ah così è, solo in banda laterale agisce. Certo che sì, certo che sì, in AM non ne ha la Yaesu di processore o compressore, quello si chiama compressore, anche il 920 di ultima generazione. Ok, quando l'ho comprato mi avevo preso una delusione allucinante, perché in AM non ha il processore, capito? Non ha il processore. E infatti non ricordavo sullo Yaesu che avevo io, non c'era quella voce in AM, assolutamente. Anzi, se tentavi di alzare la voce, entrava questo LC e limitava, un casino, vedi. Solo Natalino aveva le impostazioni giuste per quell'apparato, però poi ormai è andato anche quello, buon viaggio. Lo so, però è così. Io già ne gliel'ho detto, a me quelle radio non piacciono, già da quando sono uscite, perché non hanno processore in AM, mentre il K, le radio, le ha fatte complete, ha fatto un microfono che alla fine del mondo, l'MC60, capito? Con il circuito di preamplificazione che lo puoi inserire, lo puoi disinserire, con l'adattatore di impedenza, la 50, la 500, tutte le radio complete in AM, in FM, in SSB col processore che lo puoi inserire e disinserire, la regolazione della potenza, la Yaesu non era fottito nulla, ha fatto prima i tre giocattoli per mettere appresso la Kenwood, no? Perché la Kenwood ha iniziato 430, 140, 680, 440, lei ha fatto un'unica radio, ha fatto il 707, poi è nato il 757, 757GX, 757GX2, sempre matesse radio, cambiava la scritta, non ha mai fatto niente, sono radio che non serve a nulla. Certo, vabbè, sono radio amatoriali proprio per andare in SSB o mode digitali, così. L'AM ormai solo il K lo faceva, i vecchi modelli. I nuovi modelli come sono? Messi male? O se la cavano? E i nuovi modelli che cosa? Che non fa più il radio, li fa la Yaesu e continua a farli come li faceva la Kenwood, con tutte le sue emissioni. capito, hai Gianni, processore con la radio, una M, non ne ha, ecco perché io ho dovuto comprare un microfono preamplificato per usare l'FT 920 in AM. Ah, ecco l'animatore, c'è un animatore, si mette a parlare con un Eliso FT 757, Gianni, aiuto, sono radio che si usavano negli anni 70 quelle, cosa ne fai? Il radioamatore non si accontenta più di nulla, se non ha una radio ultrasensibile digitale di ultima generazione cosa si mette a fare? Il radioamatore col 440 mi metto a fare, rumoroso, in banda laterale, non... cosa vuoi sentire? Quelli sono, io li chiamo baracchini a sintonia continua, capito? E cosa ne vai dell'OTS 2000? Burgunchi su vuoi andare in 27, anche il TS 2000, in AM non te ne dà di processore, ma è un K digitale, è un quadribanda, ma cosa vuoi che nella futi alla Greenwood devi fare una radio di quella generazione? Il TS 2000 è una radio che tu ti perdi, capito? Sai cosa vuol dire che ti perdi per tutte le funzioni che c'ha? È una radio che va molto bene in VHF e in UHF, in HF non serviva a nulla, l'ho avuta anche io, capito? Cioè avevo un'unica radio e facevo tutto, però non faceva niente, invece io ho una radio per ogni banda, che è diverso. Sì, beh, io avevo l'857 che era veicolare e la modulazione non c'era niente da fare, usciva come un baracchino omologato, usciva peggio di così, perché questa almeno è limpida e lì era invece un po' cupa, quindi non per nulla la va con gli AESU, dai. Io naturalmente, come già ho detto a tanti, preferisco i baracchini, d'altronde io sono CP e quindi uso baracchini, quello l'ho fatto fuori e no, non mi interessa. Certo, se ho comprato l'FT 1200, è arrivato a casa di Vata, è sballato lì, nuovo, di pacca, ero contentissimo perché la radio è molto bella, c'ha il display a colori, molto bella. Adesso gli attacco il microfono da tavolo, vado l'MD100, sì, l'MD100, vado a parlare in AM e non c'ho processore, no, Giudito, allucinante, vado a mettere nel trattore di spettro e mi dava il punto massimo di modulazione, però non cammina come quelli della ICOM, poi due mesi ho tenuto fuori dalle balle, l'ho venduto subito e ho preso il modello superiore, anche il modello superiore in AM non ha processore. E gli ICOM sono migliori in AM? Uguali sono, male uno è peggio dell'altro. Assolutamente, tanto l'ho fatto sentire l'ICOM 756, lui, a saperti. Non hanno niente a che fare, guarda, tu prendi un 940 che ha 40 anni, le metti le 1060, lo usi in 27, esce come il 440, così. Prendi l'850, prendi il 450, tutte radio semidigitale, ok? Che non sono di ultima generazione, però in AM vanno sempre molto, molto meglio dell'ICOM e della IAESU. La IAESU proprio non ha mai curato niente, ha fatto solo radio dall'inizio alla fine, ok, sta continuando a farle solo per sistemi digitali, per quelli di ultima generazione. Digitali, molto completi, molto belli, però della M non era futti nulla la IAESU, mentre la Kenwood ha fatto queste radioline molto complete che sono servite, capito? Beh sì, 70 è un apparecchio amatoriale, in HF sta in SSB, più che altro, sai, modo digitale, PSK, ma alla fine della M a ben pochi interessa, nonostante, vabbè, ci fosse pochi mesi fa, intorno vicino ai 7000, tipo 190, c'era un gruppo che parlava in AM, lo sai, un gruppo che si era messo d'accordo a parlare in AM, ma arrivavano bassi, no? Non c'era paragone con l'SSB, dai. Bene, e tu stavi dicendo del 440, no? Che è un giocattolino per uso amatoriale, e pensa all'FT7B, te lo ricordi l'FT7B? Sembra un baracchino, un maracchino. Ho detto, io l'ho regalato a Mario Manse l'FT7B, con tarne più tre da tavolo, regalato a Mario Manse, Micia Cerantonello, lui ha pulito tutte le schede, gliel'ha tutto riordinato perché era sempre fermo, quindi quando girava faceva... chiave, se no era tutto messo a posto. Ho usato anche quello, ma prima di quello, assieme a quello, era uscito il 707, capito? Sempre della IAS, con mi sembra che avesse già il frequentimetro, quello, l'altro non aveva ancora la scala meccanica. Non c'è la radio che ho avuto io, della serie Kimball, le ho avute tutte, della serie 3, della serie 4, della serie 1, tutte, il 120, il 130, io ho iniziato così, il 140, capito, della serie 8 lo stesso, l'820, l'830, l'840 non l'hanno fatto, hanno fatto direttamente l'850, della serie 9 lo stesso, il 920, 930, 940, 950, le ho avute tutte le radio, ho le fotografie lì, ho le fotografie, quindi carta canta, non sono balle, io ho tutte le foto e tutte le radio che ho avuto con mia figlia seduta nella scrivania, allora ero su all'ultimo piano, ce le ho avute tutte, mi ho fatto un'esperienza allucinante con quelle radio lì, quindi te lo sto dicendo, la IAES non mi è mai piaciuta, mai, mi aveva convinto Mario Nattari, è arrivato 757, vabbè, me l'avevo comprato, linea completa addirittura, perché la IAES aveva fatto, a differenza della ICO, no? Della Kenwood, che la Kenwood faceva il PS50, il PS50 non mi ricordo l'altro, comunque io c'ho PS50, separato, la colonnina esterna separata, la IAES per recuperare spazio ha fatto l'alimentatore con la colonnina incorporata, una gagliata che non ti dico, Sant'Antonio mio, costava una barca di soldi, me l'avevo comprato e dopo l'ho venduto a Nino Torrebravo, figurati, io mi sono ricomprato il 430 sempre da Mario Nattari perché in AM non ne toglievo più. 857 mio andava benissimo, te lo ricordi come si può in tutti i modi di emissione. E io ho capito quanto di proci devi volgere a Trento, devi fare delle cose eccetera eccetera. Va bene, è entrato Gianfranco, avanti Gianfranco, sono io, ancora per poco perché vado a portare il cane, anzi mi allontano un attimo, inizio a preparare, e poi c'è Marco, Natalino e Gianni Capri2. Vai Gianfranco. Buonasera a tutti, ti prendi Marco lì. Eia, finalmente ha detto, non era entrato nessuno. Gianni doppio room, nemmeno. Gianni, ci sei all'ascolto? Forse sta lavorando di sera. Ah, di sera, ecco, capito. Peraltro ha detto Claudio che oggi era il suo compleanno. Il compleanno di Gianni, se lo sta passando a lavorare, te ne immagini? Purtroppo. Io già gli ho fatto gli auguri su internet, già li leggerà. Ehi, ciao Gianfranco, non ti avevo salutato. Quando Claudio mette, anzi toglie il processore, è un riposo per le mie orecchie, capito? È un riposo, perché no, arrivano altri bassi di radio, magari devo alzare bassa. Poi quando entra, come si chiama, D'Alghero, coso, è amplificatissimo, è una cosa proprio fuori del comune. Devo alzare e abbassare in base alle modulazioni. Ma guarda che io non sono, se devo sfasciare le orecchie te le sfascio, io ho il processore inserito, sì, ma il Mickey Gain del 440 è tra lo 0 e l'1, se lo abbasso ancora di più non esce proprio, capito? È proprio la radio che funziona così, con la mia voce, ma non mi dire che ti sto sfasciando le orecchie, no? Già va bene. No, ma sai com'è? Quando è entrato Gianfranco, no? Era bassino di radio, quindi ho ascoltato il volume lo dovevo regolare o per te o per lui, capito? Poi ha migliorato un po' di radio. Capito. Va bene, vai, io mi allontano, vi lascio al vostro questio, se ci siete a dopo devo andare a portare il cane. Capri 2, per te il cambio, ci sentiamo dopo. Eia Capri, dai, mi hai detto che hai l'FT7B, no? Lì, sembrava un baracchino quasi, non sembrava nemmeno un HF, quattro manopole messe in croce, eppure parlava anche con quelli, non so nemmeno se il ricevitore è silenzioso oppure no, quello non lo so. Tu cosa ne pensi, tu che l'hai trovato in ascolto in HF? Eia, ciao lo Capri, dai, dopo riprendi la talì. Eia, cosa Capri, andando se ne sta, perché lo sento basso va. Ehi, sta andando al market, mi pare di aver capito, si sta sentando un attimo, dai. Ma tu eri dormito, come dice qualcuna? No, stavo facendo cose. Eia, computer, avevi detto che cosa ti si era bruciato il computer? Ah, me l'hai detto già, sì, il gruppo di continuità. E poi sa cos'è, Natali, quelli della Trust sono un po' terra-terra, me. Io l'ho comprato giusto perché costava poco, ma non è un prodotto serio. Vai Gianfranco. Di continuità, il mio era un modello base abbastanza banalotto, ma vedo che quando c'era sbalzo di corrente non c'era gruppo che tenesse, perché solo in primi tempi aveva funzionato bene, poi passava uno sbalzo di tensione e si riavviava il computer, quindi. Eppure la batteria l'avevo cambiata, batteria al piombo, mi pare, non mi ricordo se era da 6 ampere, capito? Piccolina era comunque, anche quando era carico non teneva niente. Sì, da me ce n'erano due di batterie, potevi attaccare due monitor e due computer, dopo c'erano altri attacchi per la rete, per la zottola, erano a due lumi. Sì, no, l'avevo pagato anche poco da Ocean, sai, Ocean fa prezzi anche abbastanza vantaggiosi. Sì, poi c'ero da secoli, ce l'avrò più di 10 anni, forse 15. E quindi, vabbè, si può capire. Avevo già cambiato la batteria in pari due volte, adesso sarà lo stesso. Comunque ho staccato tutto, ormai sto usando solo il portatile, e l'ho attaccato direttamente alla 220. Altro che thrust, mamma, poi aveva degli attacchi delicati. È una cosa seccante, era, dai. A me mi ha fatto scattare anche il contattore, chissà dove è partito. Sarà tutto in corto, figo, meno male che non sono uscite le scintille. Vai Gianfra. Anche qua altre cosettine, perdonami però Gianfra, ti sento, mamma mia, ho alzato anche un po' il volume, ma ti sento a filo, se potevi spingere qualcosa un po' di più. Io sto per trovare. Mi stavo documentando sul 556 nato e sul 223, no? A parte le dimensioni che sono compatibili, no? Praticamente uguali o quasi uguali, insomma, roba di centesimi di millimetro. Facciamo che sono uguali. Il nato lavora con pressioni più elevate, è più potente. Non capisco cosa voglia dire, però per esempio il nato funziona a 66 mpa di pressione e l'altro funziona a 50 mpa di pressione, quindi molto più potente, per cui tu col 556 puoi sparare 223, ma non viceversa, perché la canna del 223 potrebbe non reggere la pressione, potrebbe fessurarsi la canna, capito? Poi ci sono tutte le varianti ovviamente per la roba da guerra, per esempio ci sono quelli a punta verde che sono un po' perforanti, no? Quelli chiamati armor piercing, però ci sono quelli a punta nera che sono ancora migliori, che hanno un inserto di tungsteno, no? Che proprio perfora le body armor dei soldati, no? Sì, lo so, però le canne sono 5,56 in atto, siamo noi che mettiamo il 223 Remington. Ah, alla fine le canne sono lici, ma perché, vabbè, in America ho letto varie cose, se il fucile è fatto proprio per il 223 come potenza, dice di non usare le NATO, che sono molto più potenti come pressione e quindi come coso. Ho visto sparando anche contro un blocco di acciaio, una piastra d'acciaio da, non so se 10 mm, bucato come niente, aspetta, ed erano quelli a punta verde, i perforanti, quelli meno perforanti diciamo, dai, eppure caspita. Sì, lo so, l'M4 lo vendono per 5,56 in atto, capito, però dato che le carticerato non le trovi, metti 223. Eh beh certo, le NATO sono per militare così. Comunque è bello, guarda, c'è un ragazzo che fa video di mio interesse su YouTube e ha un Norinco uguale all'M4 in calibro 223 e ha fatto un video anche sparando. non dare il culo mi, perché sai il calibro è piccolo, appena appena, però bello, bello sparare con quel calibro. Poi sai, alta velocità, anche precisione, eccetera. Gianfranco? Sì, lui mi sta migliorando un po', tenendo presente che c'ho un mal di gola muscoliare. Sì, e migliorato parecchio, migliorato parecchio. E stavano dicendo della Trust, sì, cose file, però certe volte davano problemi, incompatibilità con i driver, tipo la chiavetta Bluetooth della Trust avevo comprato tra le varie cosettine. Vabbè, le altre non avevano bisogno di driver, erano tipo cuffie a microfono, quelle cose. Però mi ha dato da fare la chiavetta USB, no, come si chiama? Bluetooth per Windows, no. Può aggiungere driver, roba, insomma, con uno sono riuscito a farlo andare tanti anni fa. Però siccome ho perso i file di aggiornamento e non li ho trovati più, sul computer portatile non si può manco più mettere. Ed eppure per Windows, lo stesso Windows, come si chiama? XP sempre. E vabbè, pazienza. Perché sai, una cosa a me piace che abbia già i driver aggiornati, che lo metti e funziona, non che devi cercare aggiornamenti. Anzi, ti dirò di più, che nonostante gli aggiornamenti ho dovuto farlo funzionare per vie traverse. Non so facendo cosa, vabbè, non me ne ricordo più, sono passati tanti anni, dai. Sì, scusate, riprendo. Mi devo allontanare perché sono chiamato. Ci sentiamo. Eventualmente, sì, Marco, buona serata per te. E io Gianfranco, come tu devi cenare? No, non ce la faccio, ma sono una giorno di discorso. Hanno contagiato questa cosa, forza, guarda, fanno un giro, ma dovessero. Vabbè, un ottimo momento. Beh, questo adesso piano piano col freddo inizieranno i malanni, anche a me mi becca la gola ogni tanto, mi viene la voce da Freddy Krueger poi. Va bene, buona, dai, nel caso ci sentiamo dopo, che dopo rientra Claudio anche. Ciao ciao. Ok, ciao ciao, io pensavo che fossi proprio Krueger, comunque, va bene. Fred Krueger, mi manca il cappello, forse ancora le unghie a lama ce le ho, i coltelli sulle dita, ma mi manca il cappello. E quindi Natalino, mi stavo scialando guardando video di, oppure hanno fatto prove tipo sparando alla testa del maiale, no, ovviamente morto, no, tagliata la testa, e stavano provando a sparare col 9, col calibro 40 che sarebbe 10 mm e col 45, e ti dirò che il 40 ha un suo perché rispetto al 9 riusciva più a, vabbè, quello ha fatto una furbata, però anziché la pallottola ogivale ha messo quella tronco conica e quindi giustamente ha un, come dire, un effetto più devastante, no? Perché quella ogivale attraversa la testa e boh, del maiale, mentre l'altra aveva un effetto massivo più grande. Mi. Un 40 è più potente, raga, no? Non c'è confronto. A me piace più il 40, per esempio, del 9. Ma è più potente di polvere o solo perché è più grossa la palla? Anche di polvere, cazzo, vedi come butta giù quei bersagli che abbiamo di ferro noi, il 40 ti fa questo. Ah, perché tu dici più grande il bossolo, c'è anche più polvere. E poi hanno fatto una prova su un osso, un grosso osso di suino, credo, oppure di mucca. Il 9 gli ha fatto il buco e poi gli spara il 40. Oh, l'ha spaccato, l'ha fatto saltare in aria, l'ha fatto a brandelli. Ecco perché i poliziotti americani preferiscono il 40. No, quelli dell'FBI ce la usano il 40 e sono tornati al 9. Figurati, perché il 40 costa troppo. come è tutto un problema di costi, mi capisco. Ah, l'FDI, ma sai cos'è? In America è molto diffuso, ho visto. Molto molto diffuso, cioè per loro è come il 9 da noi. E beh, costerebbero molto di più le cartucce, così è. Uffa, che c'è? Uffa, vieni. Ma non vedo a testa bassa, ragazza, cosa c'ha? Vieni, puffa. Vieni. Ma forse era addormentata, era tutta... pareva una zombie. L'influenza, pensi che è venuta l'influenza qua, ha contagiato un po' di persone e stanno tutti, è brutta pure. Ah, io da ora in poi giro, quando esco in città giro con la maschera antigas, così lo sai che non passa nemmeno il virus dentro quei filtri. Sì, vabbè, a tuo rischio e pericolo. Sì, perché, sai perché? Perché lì i forellini sono di 0,2 nanometri, in quei filtri EPA, sì, EPA sono, no, come quelli della macchina, proprio fitti. Invece i virus sono per esempio dai 0,5, 0,8, 0,10 nanometri, e quindi quel filtro è troppo fitto per far passare i virus. Però per esempio, vabbè, non dico di uscire con la maschera antigas proprio, ma in Giappone, visto, hanno molto senso civico, non solo escono con la mascherina anche per non prendersela l'influenza, ma anche per non contagiare gli altri. Ma sono mascherina di chi c'è fattore di, come si chiama, aspetta, 4, ma non mi ricordo i fattori di filtraggio, fattore 50, metti. Una mascherina FFP50, ma cosa sto dicendo io? Aspetta, c'è 4, 12, no, si chiamano, scusa Natalia, ho detto, si chiamano FFP3, c'è fattore 1, fattore 2, 12 e fattore 3, il fattore 3 è il migliore, mi pare che filtra di 50 volte l'aria, capito? Fattore 1 lo filtra di 4 volte, fattore 2 di 12 volte, il 50 migliore. Scusa. Allora signor, adesso mi chiamerà l'anima la sorte. Bisogna evitare soprattutto i luoghi affollati dove c'è gente uno a fianco all'altro, tipo, che ne so, mezzi pubblici, tipo la fila alle poste dove c'è gente che ti alita sul collo, è presente? Aspetta, abbasso il ricevitore. Cosa stavo dicendo? Delle mascherine, sì, fattore 3, FFP3 vanno bene. Aspetta che... dice Vittore maledetto. Oh signore. Ma lo sai che non ho ancora risolto la storia di quella lettera che mi è arrivata. Sono dovuto andare al comune a farmi dare il CUD che non me l'hanno mandato, ma avevano mandato quello del 2015, ma loro vogliono quello del 2016. L'ho sentito, stavo sentito, sì. Mamma mia. Invece di fare tutto a computer bisogna stare a fare file. No, sai cosa ti stavo dicendo prima? Ti è mai capitato alle poste che con le persone in fila c'è quello dietro e ti alita sul collo, ti respira sul collo? A me è successo, un grassone, lo sentivo. C'aveva il respiro pesante, mi stavo per tirare a dire scusi, si allontana perché mi sta alitando sul collo, mi dà fastidio. E poi quelli, un grassone che respira affannato era, no? Che hanno la respirazione affannata, mamma mia, il fastidio che mi dà. Io cerco di essere molto discreto, ma certi proprio, poi ti sta un pistolo in faccia, certi, non sta. Non si comprano con fazzoletto, nulla, così, sì! Ecco come si trasmettono i virus. Vabbè. Anche quelle mascherine tipo sala operatori, amico, quelle verdoline, quelle fanno impressione, amico. Sembra che sia un malato di AIDS. Era compri bianca, quella del verniciatore. No, non serve a nulla quelle. Quelle da verniciatore sono solo per la polvere, ci vuole il fattore più alto possibile, FFP3. certi se la mettono 4, 12, però fattore 3 il mio è la migliore. Naturalmente deve essere proprio la tenuta di aria. E quella che ho io ha anche la valvola di per buttare fuori l'aria, c'è una valvolina. Figura. C'è anche senza valvola, però sai com'è, si riscalda molto, ti viene l'affanno, invece con la valvola riesci a buttare l'aria fuori meglio e si surriscalda meno la maschera, la mascherina nasale. Aspetta che mia moglie mi sta facendo così. Beh, tutti spariti siete. Già siamo qua, non ti preoccupare che siamo qua. Molto male. C'è un cazzo pure allucinante, sto vento di scirocco, la vita quasi. Sulla nuova hanno fatto vedere un articolo, dice la pelosa, estate senza fine, c'era la gente al mare. Era pieno oggi all'Isola Rossa, sono tutti tedeschi, gente straniera, però c'era un bel di gente. Eia. E pensa che io già da metà estate non sono più andato al mare. Boh. No, non si capisce più com'è sta storia. Bene, sì, c'è, guarda, Gianfranco è andato, l'hanno chiamato. Capridù era andato a fare al market, mi pare di aver capito, al market, una spesuccia forse. E basta, forse è rientrato, non lo so. Capridù? No, niente, ci siamo solo noi. Anche Capridù va a fare le spesucce come te. Eia. E sempre due cosette, poi arriviamo a fine mese senza di là proprio. Vabbè. Ma Natalia, fammi dai un'idea che cosa? Tu rimini dopo che ti imparavo. Sta arrivando questa influenza abbastanza puzzinosa. E quindi bisognerà uscire tutti con la mascherina e sul volto come fanno in Giappone o in Cina. Non lo so. Aspetta Natalino a parlare, a dire qualcosa. Aspetta, la moglie ha detto gli sta facendo un colpicino, sta sgridando. Natalino. Un colpicino sta facendo. O un colpicino stanno facendo. Beh, ma io volevo sapere notizie, se si è visto nessuno, se si è sentito qualcuno. Io ti ho risposto, Cla, ti ho detto che non si sa se mi fanno tornare tutti su lì e mi ha sudato. E la cosa deve fare il Durrà, quante vai a Durrà lì? No? A me mi fanno ridere, cazzo, boh. Dammi la possibilità di lavorare, prendimi a lavorare, io so che ti ritorno piano piano. Quanto mi dai di stipendio? 1200 euro, me ne dai 1200 te li tieni? No, se li prendono, secondo come va, se li prendono dalla pensione stesso, o ti bloccano la pensione fino a tornare tutti i soldi. Questa cosa l'ho sentita alla TV io, capito? Ecco perché sto facendo le cose fatte bene, in regola, se devo rimanere un altro mese, altri due mesi, altri tre mesi rimango, non ce n'è problema, capito? E basta, io le dichiarazioni dei redditi miei sono a posto, perfette, non ho mai evaso nulla per quanto riguarda queste cose. Adesso vediamo, quando poi calcolano esattamente alla lira la pensione, faremo i dovuti controlli e va bene così. E voi se lo dice, mi la doghi, a voi mi riabbigliani, e voi ci mi attaccare un baro. Guarda che è un problema, io pure ce l'ho tutto a posto, anzi me ne la prendono proprio perché ho dichiarato che ho lavorato. Però se ti gagli mute ti copri nel peggio. Certo che sì, ci mancherebbe altro. Beh, io c'ho poco da dichiarare, io ho raggiunto il massimo della pensione, la tua pensione è un altro tipo, capito? Un'altra cosa, io è l'Inps che sta facendo i calcoli, quindi vediamo un po'. Sto aspettando Natali, che dovrei andare con quasi il massimo, quindi il 95% dell'ultimo stipendio. Se no, a quanto mi ha detto il commercialista dovrebbe essere l'85%, ma comunque non so di 30 euro, non mi va né ricco né povero, l'importante non andare più. Vai Marco, anche tu, tua madre ti sta facendo un QTC, e Concetta cosa ne pensa, Natalia, disperata? Io grido, mi ha detto quando andare a portargli il cuscino del 2013, perché mi avevano spedito loro quello del 2015 a un mese, però l'altro non me l'hanno mandato. Quindi io lo devo portare adesso, così fino a Andatorra, così andrà a zero russi. Ma l'hai presa questo mese la pensione, non te ne hanno fatto? Sì che l'ho presa, c'è tempo per questa cosa qui, fino a febbraio, però loro a febbraio faranno i conti. E si vede, mi piace, superato, due reddito mi ripasi in durà, li vina che ho pigliato in più. Che reddito hai superato tu? Perché superi il reddito? Che sei con può male? È quello che ho lavorato. E i soldi che ho preso quando stavo lavorando. Capitola. E gli hanno contato tutto, disoccupazione, tutto quanto hanno contato, e quindi non puoi superare i 5.000 euro. E io ho bisogno di una giovata 2.700. Vabbè, io c'ho all'anno, annuale mio, beh, alto. Buonasera, allora mia madre gli aveva bloccato la pensione perché voleva il CAF, praticamente poi nel 2016 mamma non è stata recuperata, l'hanno recuperata nel 2017 all'inizio, tipo adesso mi conosce il 2, il 3, adesso non mi ricordo, di gennaio, perciò nel 2017, e volevano il foglio di dimissione, l'ultimo, cioè non l'ultimo, la prima volta l'hanno recuperata e poi il foglio di dimissione, e infatti c'era, infatti io ho detto mamma, tu non sei mai stata recuperata nel 2016, è stata recuperata nel 2004 e poi due volte nel 2017, per il problema del diabete e il problema del cuore, e basta. E niente, poi meno male sto a posto, dai. Perché a noi non risultava che lei era stata ricoverata nel 2016, meno male, guarda. Perché sono sottintendi il 2016, a mia moglie non ho fatto fare il 2014, 2015, 2016 e 2017, tutti da dove di va. Siamo andati su Manzano e abbiamo fatto tutto. A Isaburu prima si era mandato a chiedere una rubulia ne va all'Inps, si è mandato all'Inps, dall'Inps si è mandato a chiedere una rubulia ne inserire i dati. Si è mandato a un CAF come si deve e l'abbiamo fatto stamattina. Che è Cristina. Però Rugarie, sembra che stiano cercando queste cose, le stanno mandando alle pensioni di invalidità, non alle pensioni quelle retributive, contributive, capito? Solo alle pensioni di invalidità, così stava dicendo la televisione l'altro giorno a Quinta Colonna. Aspetta, ma c'è la sociale? Di invalidità, capito? La stanno mandando a tutti! Non solo, se scoprono che se ne sei andato fuori dall'Italia, se ne prendono la pensione, perché stiamo cercando quelli che sono fuori a venire a Bruppio, cosa che non è giusta, perché se uno l'ha acquisito la pensione, perché gliela devi prendere, solo che se ne andrà pure non pagare i dazi all'Italia. Vabbè, non so di come funziona Natalia. Non so come funziona, però anche la pressione sociale c'è a tua madre, Edu. Mamma prima prendeva l'invalidità, che erano 258, 248, se non mi ricordo. Poi ha superato gli anni, dopo i 68 anni mi sa, ti danno la sociale e prende quasi 500. Solo che lì dovrebbero dargli l'accompagnamento, perché per le condizioni che è, e comunque non l'hanno accettata. Cioè, 100 euro ci abbiamo buttato così, là. Conta 60 euro di foglio dal medico, in più 40 euro di ambulanza, 100 euro. Adesso dovrebbe rifare il ricorso, penso che il foglio del medico valga ancora. Noi da 60 produttori e dopo non mi accetta. Comunque a Maia le devo per forza accettare, perché in condizioni poco cambia di TV di qua, deve essere aiutata per camminare. Comunque adesso vediamo un po' se mi aggiorni, mi informo e faccio la, come si dice, la richiesta di nuovo per accompagnare. Non gliele danno. Mamma era allettata, allora cosa mi danno data? Ma non sei la giga, se no non mi avviene i dati. Ma tra lì, mamma c'è anche Facebook, non ce la fa mica camminare, non ce la fa, si sveglia, tanto la controllano, vai tranquillo che gliela danno. Cazzo, la mia da uno, Natalia, un ragazzo, ha fatto cose, vabbè, ha fatto una cosa e praticamente cambia tutto lo storto. Cazzo, mi chiamo 202 euro al mese, cioè va 44 anni, 45, ma te ne conto, 800 euro al mese, cosa non rimedia mamma che cazzo amari, ma stiamo scherzando. Il cuore non è grave secondo loro. A me non mi viene da 267%, ma non dammi la pensione. Ha già un infarto io pure. Noi questa mano non ne seguo più. A chi commenti vado in debito d'ossigeno, cazzo, quando cammino mi fanno male le gambe. Ti sto dicendo, non ne seguo più. Comunque non ho messo la mano, perciò. Poi fa anche, vabbè, l'insulina, comunque sia la fa sempre, una, però la fa, la mattina prende la pastiglia, poi prende la pastiglia per il cuore, non è messa male. Grazie a Dio il coso, l'ossigeno gliel'hanno levato, meno male, perché era un chilometro di base, un cavolo di ossigeno. Adesso vediamo, facciamo un ricorso e poi vediamo, secondo me gliela accettano, per forza. No, non è fare il ricorso, fai l'aggravamento e boh, perché intanto col tribunale non risolvi niente. A chi a me mi l'ha detto il dottore, il tribunale, il benissimo, quindi il tribunale. Faccia il ricorso, perché non gliele voleva dare. Ho detto, ma quando mai? A chi verrà giudizio io che la giga? Se no non verrà via attestato l'accompagnamento, ma anche l'immaginaggio, chi era all'estata, non vedia, non camminava, nulla, un peso morto. Mamma era. E non gliele voleva dare lui. Gliel'ha data solo perché era cieca e non era in condizione di poter fare tutti i gesti quotidiani. Capito, vai? Dì, chi se ne sente giù, va un invalidare grave, vuol dire. Più grave di la mia che so come era da rugori. E infatti paghi su chi ti dà tutti gli cittadini. Io quando mi sono aggravato mi hanno dato il 75% mi hanno dato. Ma compreso? Perché non è un'invalidità grave secondo loro. No, questo qua cammina, c'ha la stampella con la tre piedi, cammina, cazzo cammina più di me, no, la sapete, non so come avevamo fatto a accettargliela, boh. C'ha solo questo problema che c'era un po' il braccio un po' messo malù, piegato così, però cammina, cosa, mamma è brutta male davvero, tali, mamma sì, mamma c'ha tante patologie, perciò. A lei la devo lasciare per forza e poi devo fare un ricorso e ho fatto l'aggravamento e poi il medico quando l'ho vista in ambulanza era anche con l'ossigeno e ha detto che devo aspettare un paio di mesi per vedere insomma, se guarisce un po' per accettargli la, per fargli il corso della compagnia per accettargliela la, diciamo e insomma ne sono passati i mesi, fatti il conto da gennaio, febbraio, marzo, aprile, mi sono aprile e maggio gliel'abbiamo fatta. Ecco, l'ha chiamato questo medico, proprio questa due secondi di ridotto. Adesso vediamo, dai. Vabbè, io questo passaggio vi saluto e vado a mangiare, se c'è la pasta al forno dentro il fornetto, che è quasi, penso che sia già pronta. Passiamo a tirare la pizza e andiamo a casa a mangiare. Dai, alla prossima, stasera ci esce, ciao. Ciao Luciano, è prossimo. Ciao Gabriele, ma è prossimo, saluto Massimo Caterino. Marco lì, che fine hai fatto? Oh, sì. Ciao Marco, anche a Marco, ciao Natalia. Guarda la concetta, ciao, anche Anna, ciao. È tutto strano, me. Come danno l'invalidità, capito? Ma... vabbè. infatti lo so stato io come sono, Marco. Infatti voglio vedere come sei anni curarci per gli anni della pensione. La pubblica pensione, 280 euro. Che pensione è? È che sono troppo giovane. Insomma, io non riesco a capire, non si vergogna, 280 euro. Non sai mio fratello cosa prende l'invalidità e sta ancora lavorando perché va in pensione a metà del 2018, va dopo di me. Ok, e c'ha l'età tua. Però c'ha il contributo lo stesso come me, quindi va un po' prima. È dipendente regionale, lui lavora all'ASI. E l'ha investito col motorino a Porto Torres in via Torre Sacchi, lo scolabus del comune. A parte gli hanno fatto una barca di soldi. C'ha il collo storto e l'occhio un pochettino più abbassato perché l'aveva preso giù mai dai mucchio. E più c'ha il diabete, forse prima di Gianni. Non lo so, lui è proprio, c'era 16 anni, ne ha 60 quasi. E quindi da ragazzino il diabete. Allora lavora, gli hanno, le fanno l'accumulo, quindi con 7.30 dice ai bidegiani, però non gliene frega niente, e prende la pensione di invalidità, che sono 530 euro, ok, perché lo so, più piglia altre 1.600 euro di stipendio, hai capito? Per questa invalidità permanente che c'ha il collo storto, perché l'hanno operato alla cervicale dietro il collo, e poi c'è una cicatrice sotto l'occhio, l'occhio un po' abbassato, capito, è tutto bello. Ne prende 530 euro di pensione, più c'è lo stipendio. Allora, non perché sia mio fratello, ma io dico, ma se la pensione è di invalidità, a uno ne dai 400, a uno ne dai 500, a uno perché ne devi dare 280? E secondo l'invalidità che hai, ti dico così, senti, là. La maggior parte degli invalidi prende 280 euro, perché secondo il grado di invalidità che tu hai, e la gravità soprattutto dell'invalidità che hai, ma io non esegu più, eppure cazzo mi danno 180 euro, non avevo fatto la pagola. Che è la percentuale, quanto ti hanno dato di percentuale? Mio fratello c'ha il 95% di validità. Sì, io c'ho il 75%, se mi avevano dato il 67%, ho dovuto fare l'aggravamento, perché sennò prima pensione non me ne davano, te lo ricordi che non me ne davano. E mi sono intestardito via, che il dottore mi ha detto non mi dà sviani. L'invalidità, a quello se mi l'hanno data, l'ho buttato tanto di voi gli specialistici a vederla se me l'hanno data, e la prima la usi a ratta. Ho capito, ma mi fa c'è il diabete, più c'è questa invalidità permanente, mi hanno riconosciuto, infatti al lavoro adesso in ufficio l'hanno anche messo, le hanno cambiato la mansione, normalmente Gianni no, io già fai vita, ma per carità che gente, mamma mia. Sei stato in quel lavoro, cazzo, a costo di andare a zappare, ma me ne ero andato subito. No, Tavi, ucci. Va bene, va bene. E no, ma lo stesso, Marco, mamma era bidella nautico, era in pensione con 35 anni di servizio, e poi ha avuto osteoporosi, quindi si è aggravata con osteoporosi, adesso c'è il barcolino e c'ha la pensione sua, più c'ha anche, mi pare, intorno alle 400-430 euro di pensione di invalidità, capito? Eia, mi stavo addormentando, lo sai, sta così bene qua adesso. Invece di bucarnire lì si va in un bel mani, capisci? Chi ha 50 anni sono già in pensione, non è mai fatto un bel vita giù, io che 50 anni in pensione, via. Per carità, mi la bucano anche i popolacci che hanno veramente bisogno di avere un sussidio, la salvezza da lì. E tu tutto un carrozzone politico, è tutto un magna magna. Pensano a Vincisetti e chi si ingrazia a Vitalizio, si crede a tutti un cavolo di te, lui, là, e tutto mangia mangia, Che schifo. E tua madre, Marco, era riuscita poi a fare quell'integrazione o non ci siete riusciti? Quegli anni mancati di scuola? No, perché te l'ho detto, il cognato di Ivan gliel'ha detto, lascia stare i sindacati perché non ottieni niente, vai direttamente tranca avvocato, con i sindacati stai fresco, infatti lei invece di fare quello che gli è stato detto è andata ai sindacati che non fanno un cazzo. Sindacati gli abbiamo staccati. Io mi sto muovendo, vabbè sì, anche se da capo mio personale, cioè quello dell'azienda, mi ha fatto tutte le carte, tutti i fax, tutte le cose, capito? Per il resto, se non vi pensi tu, tanto dello sindacato, tanto gli animagni. Ehi. Vabbè. Lì per quest'artrosi dell'anca prima stava chiedendo qualcosa, voleva farci una parziale in varietà, che cammina a fatica, sembra un zombie quando cammina, però non, poi ha lasciato stare tutto, tutto sta mollando, ma vabbè. Sì, Marco, vuol dire va bene così. No, mamma ogni due anni fa la visita e si è tutto a posto, non gli hanno mai detto niente, anzi è sempre bigiurente, piano piano, qualcurino, tra poco i due pesi del carrozzello, mi sa, ma vabbè mamma, c'ho 85 anni fatti, e vabbè, così è nata lì. Invece Concetta lo stesso prende la sociale? No, lui prende la reversibilità, sociale non gliela aspetta. Ah, la reversibilità, sì, esatto. E io. Invece mamma, mamma ne ha tre, perché prende la reversibilità di mio padre, capito? Prende la reversibilità di mio padre, di lui a 20 anni, più prende la pensione sua, che ha la pensione con 35 anni di servizio, più prende la pensione di valetta. E da non arrivare nei conti, non lo supera il reddito, no. Mio, te lo mico che abbia nato la microfoni. Eia. Ti ricordi che era successo anni fa? Io ero a San Francesco, no? E qualcuno con la portante si era addormentato e sentiva a mezzo russare. Mi pare che era proprio Gianni. Non ricordo chi era. Ma mi pare lui, boh, perché il segnale a San Francesco era forte. Cazzo di acqua. E non è la prima volta che succede, mi. Era successo, mi pare, a 131, mi. Gli era successo, sentiva russare. Sì, anche a Gianni non so che era successo. Il problema è che Gianni russava e tordiava. E si tendia tutto. No, ma che? Ogni due giorni su via mi carica, alla fine avevamo telefonato, avessi recitato, perché Gianni c'era il vizio e ce l'ha ancora, di parlare si addormenta nella sedia. Oh, c'è già nel versore, ma adesso è bello, cioè è grande di età, no? Io vivo che è grande di età, sì. C'è la pensione da tanti anni, il suo posto l'aveva preso al figlio, ripeto. Niente, non ho visto la poco, ma è sempre un piscio, sempre uguale. Nonostante sia grande d'età, è sempre lui, non cambierà mai. Guarda, raramente lo sento in VHF, quando sente qua altri soliti, raramente entra, vabbè, sempre qua siete. Non c'è un altro giorno, diciamo che stavano facendo le prove, stavano attivando l'RST Alfa, non è entrato, lui esaurì come tirava il shift, e gli ho detto, guarda, è entrato, va, mi sa. sento, vi sento sempre carissimi. Ma è che vuole che ha, sarà vecchio come lui. E poi c'è riuscito, c'è una bella stazione, c'è tutto, c'è VHF, VHF, VHF, c'è una bella radio, a volte manco riesce a mettere, non riusciva a mettere il tono l'altro giorno, capite? Non so che radio hanno, però so che c'è da, c'è una bella radio. C'è belle radio, c'era il veicolare, poi c'era il portato, ogni tanto lo vedevo in giro con questo portato. Poi non ho più visto un giorno, quando era via Pasqua veniva spesso la forbice, capito? Perché c'è da pescare, non fa altro, va a pescare, è tuo figlio, l'ho visto la Columbano un giorno, ha detto ma papà tuo, e il babbo, l'unica cosa che fa, trova, mi magna e va a pescare, boh, non fa nemmeno nulla. Ma mi pare che da poco è entrato in 27 anche Gianni. Il 27 mi, se non sto sbagliando io, è entrato in 27. Da poco mi, da boh, un mesetto fa forse. Boh, vuol dire che io non c'ero. Ma io già lo sento in qualche. In voi non entra, già entrano intanto. E poi lo sento spesso in 40 metri. 40 metri entra ogni tanto. Quando io e cose Salvatore avevamo fatto il cambio nominativo, no? Beh, il voto più zero, io sei zero, perché dovevamo fare il cambio. E non l'ha aiutato nessuno, ha fatto tutta la documentazione per fare il cambio, non per unificare il nominativo. E quindi era sempre il voto più zero, no? E il voto più zero QG. La gente ce la dico 40 metri, io se zero così, ma Gianni finalmente è riuscito a poi guardo, perché sai, entro al computer, guardo, sempre quello più zero così, ci ho guardato e ho detto, ma perché sta già di se zero, se quello più zero, non cambia niente, intanto non mi attivo a quello, come? Alzo tutti i 100 S0, io devo rimanere con doppio zero. Adesso esco anche io, Roma S0. S0 QG. L'ho fatta ridica. E invece adesso quando entra con la tavetta come V doppio zero, capito? Entra come V doppio zero. Perché non ne ha fatto cambiare un attivo, è rimasto V doppio zero, ma meglio. Meglio, capito? È più ricercato il V doppio zero. Eccetera. Vabbè, cazzo, mi prende un abbiocco, mentre dicevo che uno mi prende un abbacchio, che ti venga a casa. Sì, un po' lo fa, e poi appena apre il market qua vicino vado a pigliare lo stesso due cosette, come sempre dico. Devi prenderti la birra. No, non solo pomponi, io mi devo pigliare budini, al creme caramel, qualche bustina di mangime per gatti, così, proprio due cosette, due. Sì, l'amaro, ti premi che sei ubriaco nefragico, cosa no? Dilla la verità. No, guarda, a casa ne bevo poco, sarei bevuto tutta mamma, l'amaro lucano che avevo preso. Ho preso la bottiglia che da piena che era e ce ne è rimasto due dita, c'è l'amaro, è finito. Da chi è che l'ha finito? Ma cosa? Sta chiamando da Lunesole, che mi riceve il cambio? Sull'uno mi PMR, digli due paroline. E che? Uno che sta chiamando in generale, da Lunesole. Che mi riceve il cambio? Canale 1, 486-005 o 006 se riesci. È acceso. E quello, dai, dove parlano tutti, quello lì è il canale 1. No, dove parlano tutti è il 7. Il cambio? Questo crede che sia tipo paracchino, me. Non vuoi nessuno. Aspetta che parla. Sono alta di Sassari, voi dove siete? Ma sta parlando con qualcuno, ecco perché. Sì, sta parlando con qualcuno, sì. Sto parlando con qualcuno, no, non voglio cambiare, boh, è lì, fermo, mio, ma che serve? Sto parlando con qualcuno, boh, se non c'è qualche manifestazione. Già ancora Cappuccini, ha detto, mi è andato sul 2, sta facendo tutti i canali, tutti i canali, adesso vado su un canale, gli dico 4. Ah, la serietà, poraccio, devi lasciar vivere. No, così. Ohia. Nuove entrate poi non sanno nulla. Comprano queste radioline a Lidl e credono di fare 20 chilometri. Ma pensa che io, nonostante sapessi che la UHF è critica, no? Io credo davvero che se riuscissi a fare 5 km almeno in area in spiaggia, no? In area completamente aperta. Invece non li fanno. Quelli omologati, guarda, io li ho provati in spiaggia. Sono arrivato dal quinto pettine al Lido di Sors, 2 km, li ho controllati sulla macchina, 2 km hanno fatto. Sempre in piedi, no, col portatile in mano. Quindi come vedi fanno poco, 2 km in spiaggia, senza ostacoli. Pensa in città non fanno niente, ecco perché tutti devono pompare, alzare potenze, alzare antenne. No, evito, ma devi pompare, la zona ci vuole, evito io con l'antenne una alla finestra, arrivo sino ai punti. No, va bene, una cosa te ne ha fatto, col Vox, un microfono originale, suo. Alimentato a 12 volts, lo lascio lì in ascolto, cioè, se poi sento persone che mi interessa entro e fa vento, mentre va a tenere altri, se avessi una giova vergogna. Attenzione, attenzione, mi ricevete sul canale? Metalle, adesso ne dico una, vai, Quindi, ma non hai giorno, vai, vai. Che ti sto ascoltando, vai, ma non hai giorno. No, però sembra che stia parlando con un'altra persona. Aspetta che piglio quello omologato però. Tattalino, tattalino. Io sto mangiando. Oggi ma niente, oggi ma niente, roba buona. Pasta asciutta. Sai, la pasta asciutta anche di notte ti fa concetta, eh? Con ragù. No, con i pomidori freschi. Ah, due pennette? Eia. Hai visto? Invece ci vorrei da pranzo oggi. Direi che c'è pennette. Questo pennette col gondolo e radicchio, c'è la mia figlia a casa. Mamma mia come sto. Ribetti, mangi maniate. Faccio ancora incubi. Stanotte niente. Stanotte leggero. Guida, pranzate e aggiornate. Pranzato vai. No, ha pranzato Marco. Cosa gli hai detto? No, lui stava pranzando. Quando è entrato non stava pranzando. E allora, stava pranzando. Non arrivo con l'omologato, no? Vabbè, ovvio. Sì, Natali, io alle 6:30 ho mangiato, come si chiamano? Non tortellini, ravioli con lo sugo, col pomodoro fresco lo stesso. Sì, parla. Io ci arrivo, pronto, pronto, pronto. Eia, però vedi, questo c'ha proprio mezzo fatto, non ci arriva, vedi qua. Eia. Da portatile a portatile è un problema. Come vedi, ci vuole la cosa esterna. Beh, io non l'ho messa, però non sul tetto, no, sono qui nella finestra, giusto, per già l'hai vista quella acciaio ossidabile monobanda UHF, che l'ho trovata in mansarda, ho detto no, che antenna di 26, poi ho guardato, c'era scritto UHF, a filettatura, a PL, dito, agita, faccio la base magnetica. L'ho provata il giorno che mi ha sentito Giulio, ma mi sentiva molto bene. Capito? Infatti ho provato a chiamarti con quella il giorno che eri a Bancali, però no, non ti sentivo. E Antonello mi ha detto appunto che eri con la radio piccola, beh, io ero abituato con quella grande che adesso c'è lui. Sì, mi sono levato la giacca e c'era un po' di caldo, un po' molesta era sta giacca. Ah, adesso sto meglio. E cosa stavo dicendo? Sì, vabbè, giustamente. No, quello chiamava, ma gli ho parlato sul 2, si è spostato sul 2 ma non mi sentiva. L'ho sentito a tratti, forse in macchina, probabilmente in macchina. E quindi non, figurati, dentro la macchina non prende nemmeno. No, la macchina ci vuole la sua antennina, la metti fuori, capito? Allora già prende. Non l'avevo messa così giusto per ascoltare, però ti ripeto, se dici se tu e Antonello già entro, una fitta seme di là. E ci stanno parlando gli altri, ascolto, sto zitto, non frega niente. Scusa, volete spostare, basta dirlo, ci facciamo un canale nostro, lo teniamo sempre acceso. Non mi rimette l'antenna, anzi non c'è l'antenna su Natali, sì che l'avevamo lasciata. Io con 2000 arrivo dappertutto. Sì, ma abbiamo lasciato anche l'antenna su, però, giusto? Sì, ma ne ho tolto il capo, sto qua, però ne ho un'antenna pure. Io, beh, se ti tengo un attesso, volevo portarti. Tengo a Giulia, le punti volevo portarti, devo dire. Lui ragazzi, che ore sono? Le 8:30, 8:28, minchia. Allora Marco, io ho 23 gradi con la finestra aperta in stanza. Ok, quando sono andato a prendere a portare a Filippo, era mai che corte, c'è un vento caldo e la rete a vasi. Allora, io ho esattamente 23 gradi a finestra chiusa. La finestra è chiusa, c'è quella del bagno aperta. 6 metri, 7 metri da qua, 23 gradi, ecco perché avevo caldo, ero con la felpa, ho detto ma come mai c'ho caldo, e mi stava dando fastidio, adesso sono in maglietta e sto meglio. Domani ha dato punte di 27 gradi, 26-27 gradi, capito, quindi rimarrà all'imbeccio sicuramente tutto il giorno, se non ci sarà anche sciroppo, sotto da mare, no ma io me ne accorgo perché c'è Filippo che non è nella cuccia. Quando c'è fresco lui sta coricato nel suo lettino, adesso è sdraiato per terra nel pavimento, quindi c'è caldo, capito? Beh, anche il gatto fa così, Millo, mamma mia, danno sto facendo, aspetta, mi sta cadendo l'acqua, la bottiglia dell'acqua. Tutto in alto anche lì, buono. Ui. No, io adesso appena vado in pensione, mi faccio completare la sala radio laggiù, l'altro pezzo che manca, io sto in mezzo, e sull'altro lato nuovo mi metto tutti i computer, ne ho due, mi metto i computer completi, capito? Così la tastiera la tolgo, vabbè, e mi faccio l'altro pezzo, ne ho manco, è tutto a posto, e metto tutti i baracchini in base dall'altra parte. Eia. Aia. Ecco qua, sì, dottor Mezzo, adesso quello apre e così vado a prendere quella cosa lì. È comodo, perché se ti dimentichi il latte, un'altra cosettina, anzi mi sa che devo prendere anche il latte, perché sai cosa succede, con la scusa che dice che mamma c'è fresco, lo lascia fuori, e poi la colazione porta il latte che sa di passato, no, otto, il latte va sempre verso il frigo, è ben chiuso anche, se non piglia gli odori del frigo, giustamente. Beh, quando lo apri il latte, la lunga conservazione va messo in frigo. Se è chiuso, anche mia moglie lo lascia dentro l'armadio, capito? Però una volta che lo apri va in frigo, se no è un casino. Va bene, dai, prendetelo in questione. Vai Marco, io sono le 8:30 e io me ne vado a mangiare un boccone, poi mi guardo un po' di TV e metto in gocco. Sono stanco oggi, ho volato stamattina, sono stanchetto. Dopo pranzo non ho riposato perché qua al quinto piano stanno facendo dei lavori e guardi lui come fa una martellata, poi gli stavano sicuramente facendo tracce, va bene lo martello pneumatico andando in vita 4:30 e allora non ho riposato. Va bene, ciao Natalino, ciao Marco, ciao Gianfranco, che intanto si è all'ascolto sicuramente. E ciao a tutti quelli che sono su 10 in Quirix. A domani signori, statemi bene, buonanotte e buon fine settimana a tutti. Ciao. Ah, ciao Claudio, buon proseguo alle prossime. Mia Bozzimi. Ciao Claudio, ma lo sanno i signori che nelle ore pomeridiane non si fa rumore? Sì, devono iniziare a far rumore dalle 4. È troppo comodo, è così. E loro ti dicono, ma è per fare prima. Va bene. Lo sanno, c'è andato anche l'amministratore, però dice che gli orari, siccome è un'impresa esterna di Ussi, dice che gli orari se non combaciano, perché si iniziano alle 4, alle 4 e mezza vanno via, così avranno fatto. E allora abbiamo detto, va bene, dai, bastano rompere le palle, i muovetti adesso, perché stanno facendo le tracce, adesso però fisso che fa le tracce, rumore non ne fanno più, mettono i capi, le cose, abbiamo fatto il bagno nuovo. Questo è il quinto piano, sta signora, e poi gli hanno buttato giù un tramezzo per fare una tipo lavanderia, un doppio servizio, una cosa del genere. Capito? Vabbè, pazienza. Dai, ciao a tutti, buonanotte, a domani signori, ciao. Ciao Claudio, ciao, domani, ciao. Oh signor. Ehi, aspetta, mi sta chiamando mamma, Natali, dai, devo andare a fare sta commissione. A domani, ciao a tutti, ciao, anche alle ascoltoni. Ciao, ciao, alle prossime. Ciao Marco, alle prossime, ciao. Ciao, mi pare, ma mi scappa sempre il tuo nome. Dimmelo tu, dai. Ehi, Marino, ciao, ciao, ciao. Oh, ciao Claudio, ciao, ciao. Ehi Marino, là, scusa, cioè, mi viene in mente Tommaso, un nome simile, Marino, là, ok, cercherò di ricordarmi. Ciao a tutti, ciao, buona serata. Ciao, preoccupatevi, ecco, ciao, ciao a tutti, ciao.